Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Terza puntata. La Maison Volpe. Qui a Londra, nei pressi della mia casa, c'è un luogo chiamato la Maison Volpe. Cosa sia non lo so, non ci sono mai entrata. Penso che sia un ristorante o un caffè. Forse non ci entrerò mai. Quel nome conserverà per me il suo mistero. Ma ho l'impressione che quando ricorderò Londra e il tempo che qui ho trascorso, vibreranno al mio orecchio quelle sillabe e tutta Londra sarà per me riassunta in quel nome parigino. Da fuori non si vede che una porta a vetri con fitti cortinaggi di tulle color nocciola spento. Di là, dai fitti cortinaggi, non si vede nulla. I cortinaggi sono vecchi, polverosi e sbiaditi. È forse un ristorante, ma non si avverte passando nessun odore, né cattivo né buono. D'altronde non ho mai visto passando anima viva entrare e uscire per la porta, al di sopra della quale sono tracciati in nero e oro i caratteri di quel nome strano. La Maison Volpe. Si tratti di un caffè, di un ristorante o di una sala da ballo, ho l'idea che qualunque cosa vi si possa bere o mangiare deve essere cosa antica e impregnata della polvere e delle tarme di cui sono impregnati i cortinaggi. La strada è quasi di periferia, fra un distributore di benzina e un negozio di frigoriferi. La Maison Volpe, sempre ermeticamente chiusa, getta il suo mistero notturno, la promessa di piaceri segreti, esotici e forse peccaminosi, che si racchiude nei caratteri nero e oro del suo nome. Luoghi come la Maison Volpe a Londra ce ne sono molti. Sorgono nei punti più impensati, hanno nomi stravaganti e da fuori non si capisce bene cosa sono. Spirano un'atmosfera notturna, esotica e vagamente peccaminosa, e vi si trova in pieno giorno, entrando, una misteriosa penombra, dissipata appena da fiocchi lumi azzurrini. Vi sono tappeti di velluto, pareti dipinte di nero, ma siamo subito delusi e smagati dalle zuccherine sui tavoli, piene d'un zucchero color marrone, lo zucchero di canna che usano qui. Non tardiamo ad accorgerci che in questi luoghi non avviene assolutamente nulla di strano, e non vi si beve che del caffè chiaro e tiepido allungato col latte. Ai tavoli siedono persone vestite con un certo impegno. Si capisce dal modo come sono vestite che non sono entrate là per caso, passando, ma col fermo proposito di trascorrere alcune ore proprio in quel luogo e forse di divertirsi. Quale divertimento possa essere il trascorrere il tempo in un simile luogo del tutto privo d'allegrezza, lo ignoro. Non si vedono amanti che si abbracciano, e la conversazione è un educato sussurro. La gente non ha l'aria di gettarsi in una conversazione intima, appassionata, accesa. Quelle intime conversazioni che si svolgono fra uomo e donna o fra amici nei nostri caffè. Non c'è in quel sussurro educato nessuna sorta di intimità. Tutto l'arredamento, la penombra, i cortinaggi, i tappeti sembrano là per suggerire l'intimità, ma essa resta un proposito astratto, un sogno remoto. Gli italiani a Londra, quando si incontrano, parlano di ristoranti. Non esiste in tutta Londra un ristorante dove sia piacevole riunirsi a chiacchierare e a mangiare. I ristoranti qui sono o troppo affollati o troppo deserti e hanno tutti un carattere o di sussiego o di squallore. A volte i due caratteri si fondono insieme. A volte sullo squallore prevale il sussiego. Rigide poltrone dagli alti schienali, signore impellicciate e caraffe d'argento. A volte è lo squallore che prevale. Uno smorto abbandono. Ovunque, d'altronde, si mangiano pressappoco le stesse pietanze, le stesse bistecche scure arricciate, con accanto un piccolo pomodoro bollito e una foglia di insalata senza olio né sale. Ci sono ristoranti dove si mangia solo pollo arrosto. Schiere e schiere di polli girano sullo spiedo. I camerieri passano a gran corsa da un tavolo all'altro reggendo caldi piatti di polli. Non si scorge all'intorno traccia d'alcun'altra specie di cibo. Usciamo con una tale nausea di polli che sembra di non poter assaggiare mai più un pezzetto di pollo per tutta la vita. Ci sono anche ristoranti che si chiamano The Eggs and I, le uova e io. Lì non c'è che uova, uova sode gelate e marmore, su cui è stato proiettato un piccolo spruzzo di maionese. Si fa in Inghilterra, intorno ai ristoranti e al cibo, grande pubblicità. Al cinematografo, per le strade, nelle stazioni della sotterranea, nelle riviste illustrate, si vedono grandi e colorate immagini di cibi e bevande. It's luxurious, it's delicious. Assistiamo al cinematografo a lunghe visioni pubblicitarie di ristoranti cinesi, indiani, spagnoli, con orchestre, palme, fiori, clienti che mangiano con in testa un fez o un sombrero, estasiandosi davanti a un piatto dove tuttavia ci sembra di intravedere la solita bistecca scura e la solita foglia di insalata. Si susseguono sullo schermo boschi rosseggianti di fragole e pascoli sterminati che poi diventano il gelato Chiora, che si può avere qui e subito, o il bicchiere di cartone del latte fresco. Fresco is delicious and full of vitamins. La città è piena di inviti a bere e a mangiare. Su ogni angolo di strada si vede un cartello con un uovo alla coque e l'assennato suggerimento go to work on an egg. Va al lavoro su un uovo. Oppure, drink a pinta milk a day, bevi una pinta di latte al giorno. Baby Cham, I love Baby Cham. O ancora, have a kitchen for your weekend, abiti un pollo per le tue vacanze. Ma nonostante tutto questo clamore che si fa intorno al cibo, per la gente esso resta semplicemente food, cibo, qualcosa di generico e di malinconico. Nei romanzi si legge che viene portato some food, nessuna affettuosa specificazione. Le mille scatolette esposte nei negozi di alimentari portano immagini dei più svariati e seducenti animali, fagiani, pernici, daini, caprioli e cervi. Portano ghiotti nomi esotici e scorci di paesaggi lontani dove sarebbe molto bello andare. Ma chi vive qui da un po' di tempo è ormai smaliziato, sa bene che il contenuto di quelle scatolette è sempre food, cioè nulla. Nulla che si possa mangiare con simpatia cordiale, con piacere tranquillo. Ci si rende conto, dopo un po' di tempo che si vive qui, che nel comprare il cibo non si possono fare imprudenze. Non si può entrare in una pasticceria, scegliere qualche dolce, portarlo a casa e mangiarlo. Questo atto semplice e innocente non si può compiere qui, perché quei dolci graziosamente rivestiti di cioccolata e incrostati di mandorle sono, a mangiarsi, come impastati di carbone o di sabbia. Bisogna aggiungere, per amor di giustizia, che non fanno alcun male, sono soltanto cattivi. Innocui, ma cattivi. Al sapore vecchi di centinaia d'anni, ma innocui. Nemmeno le caramelle si possono comprare a cuor leggero. Possono essere dure come sassi e attaccarsi ai denti, riempiendo la bocca di uno strano gusto di sale. Pesa su ogni luogo dove si venda o si dispensi cibo un'opaca tristezza. Perfino le vetrine dei fruttivendoli, piene di frutta bella a vedersi, cataste di pompelmi e grappoli di banane, queste vetrine di fruttivendoli che si trovano eguali dovunque, nelle stazioni della sotterranea, nei più lontani sobborghi e nei più remoti villaggi perduti fra i campi, sono sempre tristi. Forse perché sono così inesorabilmente identiche l'una all'altra, forse perché sappiamo che quella frutta a mangiarsi è del tutto in sapore, ma forse soltanto perché si tratta di cibo e c'è di una cosa che qui è triste. E tuttavia gli inglesi sono ossessionati dall'idea del cibo. Percorrendo le strade di campagna più deserte e remote, sul ciglio d'un bosco folto e selvaggio o ai margini d'un pendio sterposo e desolato, si incontra un cartello con scritto Teas, Luncheons, Snacks. Ci guardiamo attorno, chiedendoci come e da chi possa essere mantenuta una simile lusinghiera promessa. Non si vede anima viva. Ma ecco che, pochi passi più oltre, ci aspetta una roulotte dove effettivamente si può avere tè, il solito coffee zuccherino e tiepido e panini al prosciutto. Accanto alla cassa c'è anche un grande globo di vetro dove gorgoglia dell'aranciata, nella quale hanno messo a galleggiare, forse per dare una più intima idea di frescura, due o tre aranci di gomma. A volte, invece di una roulotte, si incontra in aperta campagna una casetta zebrata con scritto farm e la solita promessa di snacks. Entriamo pensando che vi mangeremo cibi rustici e inconsueti, La farm è affollata di londinesi di passaggio che mangiano alle 4 del pomeriggio merluzzo con patate fritte. C'è il solito globo di aranciata e i bicchieri di cartone del latte fresco, fresco is delicious, allineati accanto alla cassa. Gli snacks sono panini. Quelli della farm sono fatti col solito pane, confezionato in pacchi di carta quadrettata, già tagliato a fettine e tutto mollica che si vende in ogni Lions e in ogni drogheria inglese. Tutto intorno si stende la campagna, bella, verde, frusciante e umida, selvaggia e nello stesso tempo mite come nessun'altra al mondo, silenziosa, incommestibile e inodore. Non si avverte nessun odore di letame, di bestie, di terra arata o di fieno. Non si sente nessuno dei rumori che siamo soliti sentire in campagna. Rotolio di carri o calpestio di cavalli, mucche inodori e pulite pascolano in un recinto. Nessuno le sorveglia. Non si vedono pastori, cani o contadini. A volte in piena campagna possiamo trovare un pub sontuosamente addobbato all'interno di velluto rosso e cornici dorate. È un pub identico a quelli del centro di Londra, niente di diverso. C'è nell'angolo un caminetto dove arde del finto carbone e un finto ceppo di legno. Finto, ma ben imitato. Si beve la birra in bicchieri smerigliati, grandi e pesanti. Portano la birra dalle cantine in secchi di latta o di zinco che fatalmente fanno pensare all'acqua sporca. Così, d'altronde, succede a volte anche a Londra. Perché non usare un recipiente diverso? Non c'è nessun perché. Gli inglesi sono insensibili a certe associazioni di pensiero. E poi forse quei secchi sono il segno del profondo disprezzo, dell'odio segreto che gli inglesi provano per ogni bevanda o cibo. A me pare che perfino certe parole usate per indicare cibo o bevande abbiano un suono ingiurioso e rivelino odio e disprezzo. Snack, squash, poultry, simili parole non sembrano insulti. Significano semplicemente panini, aranciata, pollame. A pensarci bene, l'odio degli inglesi per il cibo è forse la sola origine di quella oscura tristezza che pesa su ogni luogo dove si vende o si dispensa il mangiare. Un caffè o un ristorante, se appena trascuri in minima parte un certo decoro borghese, assomiglia in modo impressionante a una mensa dei poveri. E la notte, certe notti della settimana, sulle porte dei ristoranti anche più eleganti del centro, dinanzi ai locali di ritrovo più misteriosi e dai nomi più strani, perfino dinanzi alla misteriosa Maison Volpée, si vedono grigi bidoni di immondizia, grandissimi e traboccanti. I bidoni di immondizia non sono lieti in nessun paese del mondo, ma io credo che in nessun paese del mondo siano come qui, grandi, grigi, visibili e traboccanti, impregnati del fumo grigio dell'aria e carichi di una desolata malinconia. Silenzio. Ho sentito Peleas e Melisande. Di musica non ne capisco niente, soltanto mi è venuto fatto di confrontare le parole dei vecchi libretti d'opera, sconto col sangue mio, l'amor che posi in te, parole grosse, sanguinose, pesanti, con le parole di Peleas e Melisande. J'ai froid, ta chevelure. Parole fuggevoli, acquatiche. Dalla stanchezza, dal disgusto per le parole grosse e sanguinose, sono nate queste parole acquatiche, fredde, sfuggenti. Mi sono chiesta se non è stato quello, Peleas e Melisande, il principio del silenzio. Perché tra i vizi più strani e più gravi della nostra epoca va menzionato il silenzio. Quelli di noi che oggi hanno provato a scrivere dei romanzi conoscono il disagio, l'infelicità che coglie quando è il momento di far parlare dei personaggi tra loro. Per pagine e pagine i nostri personaggi si scambiano delle osservazioni insignificanti, ma cariche d'una desolata tristezza. Hai freddo? No, non ho freddo. Vuoi un po' di tè? Grazie, no. Sei stanco? Non so, sì, forse, sono un po' stanco. I nostri personaggi parlano così. Parlano così per ingannare il silenzio. Parlano così perché non sanno più come parlare. A poco vengono fuori anche le cose più importanti, le confessioni terribili. Lo hai ucciso? Sì, l'ho ucciso. Strappate dolorosamente al silenzio vengono fuori le poche, sterili parole della nostra epoca, come segnali di naufraghi, fuochi accesi tra colline lontanissime, flebili e disperati richiami che inghiotte lo spazio. Allora, quando vogliamo far parlare tra loro i nostri personaggi, allora misuriamo il profondo silenzio che si è addensato a poco dentro di noi. Abbiamo cominciato a tacere da ragazzi a tavola, di fronte ai nostri genitori che ci parlavano ancora con quelle vecchie parole sanguinose e pesanti. Noi stavamo zitti. Stavamo zitti per protesta e per sdegno. Stavamo zitti per far capire ai nostri genitori che quelle loro grosse parole non ci servivano più. Noi ne avevamo in serbo delle altre. Stavamo zitti, pieni di fiducia nelle nostre nuove parole. Avremmo speso quelle nostre nuove parole più tardi, con gente che le avrebbe capite. Eravamo ricchi del nostro silenzio. Adesso ne siamo vergognosi e disperati, e ne sappiamo tutta la miseria. Non ce ne siamo liberati mai più. Quelle grosse parole vecchie, che servivano ai nostri genitori, sono moneta fuori corso e non l'accetta nessuno. E le nuove parole, ci siamo accorti, che non hanno valore. Non ci si compra nulla. Non servono a stabilire rapporti, sono acquatiche, fredde, infeconde. Non ci servono a scrivere dei libri, non a tener legata a noi una persona cara, non a salvare un amico. Tra i vizi della nostra epoca è noto che c'è il senso della colpa, se ne parla e se ne scrive molto. Tutti ne soffriamo. Ci sentiamo coinvolti in una faccenda di giorno in giorno più sudicia. Si è detto anche del senso di panico, anche di questo tutti ne soffriamo. Il senso di panico nasce dal senso di colpa, e chi si sente spaventato e colpevole tace. Del senso di colpa, del senso di panico, del silenzio, ciascuno cerca a suo modo di guarire. Alcuni vanno a fare dei viaggi. Nell'ansia di vedere paesi nuovi, gente diversa, c'è la speranza di lasciare dietro a sé i propri torbidi fantasmi. C'è la segreta speranza di scoprire in qualche punto della terra la persona che potrà parlare con noi. Alcuni s'ubriacano per dimenticare i propri torbidi fantasmi e per parlare. E ci sono poi tutte le cose che si fanno per non dover parlare. Alcuni passano le serate addormentati in una sala di proiezioni, con al fianco la donna alla quale, così, non sono tenuti a dover parlare. Alcuni imparano a giocare a bridge, alcuni fanno l'amore, che si può fare anche senza parole. Di solito si dice che queste cose si fanno per ingannare il tempo. In verità, si fanno per ingannare il silenzio. Esistono due specie di silenzio. Il silenzio con se stessi e il silenzio con gli altri. L'una e l'altra forma ci fanno ugualmente soffrire. Il silenzio con noi stessi è dominato da una violenta antipatia che ci è presa per il nostro stesso essere, dal disprezzo per la nostra stessa anima, così vile da non meritare le sia detto nulla. È chiaro che bisogna rompere il silenzio con noi stessi se vogliamo provarci a rompere il silenzio con gli altri. È chiaro che non abbiamo nessun diritto di odiare la nostra stessa persona, nessun diritto di tacere i nostri pensieri alla nostra anima. Il mezzo più diffuso per liberarsi del silenzio è andare a farsi psicanalizzare. Parlare incessantemente di se stesso a una persona che ascolta, che è pagata per ascoltare, mettere a nudo le radici del proprio silenzio. Sì, questo forse può dare un momentaneo sollievo, ma il silenzio è universale e profondo. Il silenzio lo ritroviamo subito appena usciti dalla porta della stanza dove quella persona, pagata per ascoltare, ascoltava. Ci ricaschiamo subito dentro. Allora quel sollievo di un'ora ci sembra superficiale e banale. Il silenzio sulla terra, che ne guarisca uno solo di noi per un'ora, non serve alla causa comune. Quando andiamo a farci psicanalizzare, ci dicono che dobbiamo smetterla di odiare così fortemente la nostra stessa persona. Ma per liberarci di questo odio, per liberarci del senso di colpa, del senso di panico, del silenzio, ci viene suggerito di vivere secondo natura, di abbandonarci al nostro istinto, di seguire il nostro puro piacere, di fare della nostra vita una pura scelta. Ma fare della vita una pura scelta non è vivere secondo natura, è vivere contro natura, perché all'uomo non è dato scegliere sempre. L'uomo non ha scelto l'ora della sua nascita, né il proprio viso, né i propri genitori, né la propria infanzia. L'uomo non sceglie di solito l'ora della sua morte. L'uomo non può che accettare il proprio viso, così come non può che accettare il suo proprio destino. E la sola scelta che gli è consentita è la scelta fra il bene e il male, fra il giusto e l'ingiusto, fra la verità e la menzogna. Le cose che ci dicono quelli da cui andiamo a farci psicanalizzare non servono, perché non tengono conto della nostra responsabilità morale, della sola scelta che è consentita alla nostra vita. Chi di noi è andato a farsi psicanalizzare sa bene come quell'atmosfera d'effimera libertà di cui si godeva vivere secondo il nostro puro piacere fosse un'atmosfera rarefatta, innaturale, in definitiva irrespirabile. Di solito questo vizio del silenzio, che avvelena la nostra epoca, lo si esprime con un luogo comune. Si è perduto il gusto della conversazione. È l'espressione futile e mondana di una cosa vera e tragica. Dicendo il gusto della conversazione, noi non diciamo niente che ci aiuti a vivere. Ma la possibilità di un libero e normale rapporto fra gli uomini, questo sì ci manca, e ci manca al punto che alcuni di noi si sono ammazzati per la coscienza di questa privazione. Il silenzio miete le sue vittime ogni giorno. Il silenzio è una malattia mortale. Mai come oggi, le sorti degli uomini sono state tanto strettamente connesse l'una all'altra, così che il disastro di uno è il disastro di tutti. Si verifica dunque questo fatto strano, che gli uomini si trovino strettamente legati l'uno al destino dell'altro, così che il crollo di uno solo travolge migliaia d'altri esseri e nello stesso tempo tutti soffocati dal silenzio, incapaci di scambiarsi qualche libera parola. Per questo, perché il disastro di uno è il disastro di tutti, i mezzi che ci sono offerti per guarire dal silenzio si rivelano insussistenti. Ci viene suggerito di difenderci con l'egoismo dalla disperazione. Ma l'egoismo non ha mai risolto nessuna disperazione. Siamo anche troppo avvezzi a chiamare malattie i vizi della nostra anima e a subirli, a lasciarcene governare o a blandirli con sciroppi dolci, a curarli come fossero malattie. Il silenzio deve essere contemplato e giudicato in sede morale. Non c'è dato scegliere se essere felici o infelici, ma bisogna scegliere di non essere diabolicamente infelici. Il silenzio può raggiungere una forma di infelicità chiusa, mostruosa, diabolica. Avvizzire i giorni della giovinezza, fare amaro il pane, può portare, come si è detto, alla morte. Il silenzio deve essere contemplato e giudicato in sede morale. Non c'è dato scegliere se essere felici o infelici, ma bisogna scegliere di non essere diabolicamente infelici. Il silenzio può raggiungere una forma di infelicità chiusa, mostruosa, diabolica, avvizzire i giorni della giovinezza, fare amaro il pane, può portare, come si è detto, alla morte. Il silenzio deve essere contemplato e giudicato in sede morale, perché il silenzio, come l'accidia o come la lussuria, è un peccato. Il fatto che sia un peccato comune a tutti i nostri simili nella nostra epoca, che sia il frutto amaro della nostra epoca malsana, non ci esime dal dovere di riconoscerne la natura, di chiamarlo col suo vero nome. Erano la Maison Volpé e il silenzio dalle piccole virtù di Natalia Ginzburg, lette da Michela Cescon per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone. Domani la prima parte dei rapporti umani, sempre dalle piccole virtù, e sempre da scaricare in podcast da adaltavoce.rai.it.